Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Introduco subito il personaggio di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con un indizio, subito per facilitare così la conoscenza. In realtà poi quando sentirete le prime parole la riconoscerete immediatamente. Bisogna dire che è un pilastro, un autentico pilastro della musica italiana, ma non canta e non mi pare neanche che suoni. Non so, no, suoni. No, devo dire che sono assolutamente incapace dell'uno e dell'altro. Eppure senza di lei dietro la musica italiana, insomma, mancherebbe buona parte della nostra storia musicale. O no? Ma insomma, devo dirti, sì, è tanti anni che lavoro nella musica, però è vero che io credo, come tutte le cose, i risultati si ottengono sempre in un gruppo di lavoro. Io ho sempre fatto parte di gruppi di lavoro, qualche volta con delle intuizioni giuste, qualche volta con delle intuizioni sbagliate, ma nella musica ci lavorano anche quelli proprio che non suonano e soprattutto, meno male, che non cantano, perché ci sono già i cantanti che cantano, i musicisti che suonano, ognuno, come dicono a Milano, sano e lontano, felé falto mestè. Nel senso che per fare un buon prodotto discografico, un disco, un'impresa o un concerto, ci vogliono tante cose, dalla scenografia, ai costumi, agli orchestrali, ai musicisti, insomma, ci vuole tante cose. Io ho fatto parte di questi gruppi. Un'orchestra praticamente, un'orchestra, dietro la musica, sì. Un'orchestra in senso simbolico, sì. di competenze anche. Ma tanta gente che lavora, ecco, voglio dire, non dimenticare che ci sono gli uffici commerciali, ci sono gli uffici stampa. Io ho fatto ho cominciato proprio con da lì. Però ha già detto diverse cose, ma ancora nel test iniziale di Storielle non mi ha detto quali sono i tre aggettivi con i quali potresti fare un tuo identikit. Porca miseria, difficilissimo. Com'è che si dice? Sboccacciata. E questo effettivamente è abbastanza fondato. Realista. Poi? Prepotente. Prepotente, in modo carino, no, amabile. Beh, prepotente, insomma, mica sono amabile. Qualche volta, mica tanto amabile. Si è fatta strada, ecco. Beh, insomma, ha fatto strada. Sì, certo, molte volte me l'hanno concesso e molte volte me la sono fatta io. Adesso non sono proprio il barone no. Il barone rosso con le tacche sulla carlinga, però devo dire che sì, in genere fai strada anche quando gli altri ti concedono di farla. E quando hai buone spalle. E poi un terzo? Impulsiva lo diresti, per esempio? Una sì, cosa che impulsiva. Sì, brava, impulsiva. Impulsiva, lo mettiamo. Tra l'altro, in questa tua autobiografia, che si intitola Mara Maionchi, e così ti saluto, Mara. Ciao. Si intitola Non ho l'età, pubblicato da Rizzoli. Leggo nella seconda di copertina che Mara Maionchi è molto più di una vecchia signora impulsiva e un po' sboccata. Quindi, è la verità. Io penso che mi trattengo. Io non so come mai mi trattengo, perché mi fa dispiacere che le persone dall'altra parte siano costrette a sentire delle cose che non vorrebbero sentire, però ci sono dei momenti dove il trattenimento è sempre più in difficoltà e per cui in effetti dico delle cose bruttissime. È l'intrattenimento invece quello sale. Ma Maionchi, la tua storia è lunghissima, nel senso veramente di una... sono una vecchia signora. 1941, quindi, sì, quindi ho quasi 69 anni. No, beh, vabbè, certamente pazzia, c'è chi è più vecchio. No? No, per carità, no, non è una pazzia, è un'età però che comincia a essere, insomma, una buona età, no? Diciamo, siamo anziani, come si dice? 69, anziani. Età matura. Matura. Ti piace età matura? Che insomma. Anche se Mara Maionchi dà spesso l'impressione di essere una specie di Peter Pan al femminile. Perché, no, non mi è tanto simpatico Peter Pan. No. Rompiballe di un bambino che fa sempre le cose giuste, quel povero capitano uncino perseguitato. Non è un bambino già grande, capito? Per cui la bellezza, la fantastica bellezza dei bambini è questa loro ingenuità che è una forza mostruosa. Essere fanciulli è una cosa eccezionale, quasi divina, perché è la purezza, no? Non ci sono. Però un non po' negli occhi ce l'hai questa fanciulla. Magari. Io ho fatto, ero presente perché ho fatto niente quando Rodari e Endrigo fecero quel Gianni disco. Beh, ecco, lì parliamo di un'altra categoria. Devo dire che lì lui aveva queste poesie, queste canzoni, sai, ci vuole un albero, eccetera, che erano veramente fantastiche. E devo dire che è stato un vero piacere. Se noi volessimo ascoltare, capiremmo più dai bambini che dagli adulti. Per dire come ha spaziato nella musica, visto che citavi anche Gianni Rodari e Endrigo, Mara Maionchi, no, più di 40 anni di esperienza. esperienza nella musica, case discografiche, grande produttrice discografica, direttrice artistica, scopritrice di talenti, anche se tu scrivi nel tuo libro in realtà io i talenti non li ho scoperti, li ho incontrati. Beh, c'erano già talenti. No, guarda, io non sono mica tanto modesta, sono però realista, non mi piace neanche assumere delle responsabilità o delle colpe o dei valori che non ho. Questi signori erano già dei talenti. Gianna Nannini, Tiziano Ferro. Erano dei talenti veri. Però, dopodiché però quanti si sono persi nel mondo perché nessuno ha saputo illuminarli. Quella è fortuna. La fortuna è molto importante nella vita, è fondamentale. Che io qualche volta può essere il fattore C, ecco, quello che tu dici. Sì, quello è un bel fattore C. Un bel fattore C aiuta. Un bel di dietro aiuta. Perché gli incontri sono importanti. L'incontrare la persona che ti può capire, che ti aiuta a capirti e che aiuta a capire agli altri. Ammazza, questo è un colpo di... di filosofia straordinaria, di saggezza. Mara Maionchi, però, tu dal 1941, nata a Bologna, che non credo che nel tuo spirito così vivace, così giovane, sia stato un fatto accidentale, no? È stato il destino. Che incontri straordinari hai fatto? Chi devi ringraziare? No? Tanti devono ringraziare te. Tu che incontro giusto hai fatto? Ma guarda, è stato il destino, perché io... Quando sono venuta a Milano, che per 1961. Me 61, 20 anni. Era Milano, veramente era la speranza, il cambiamento, la possibilità di fare molti lavori, di lavori anche particolari che magari nelle città di provincia ancora non esistevano, esistevano sicuramente in forma minore. Milano rappresentava la possibilità. 61 era una città fantastica. Devo dire che sotto questo aspetto Milano è stata fantastica finché non è diventata un po' la città da bere, che lì devo dire ha cominciato a prendere, assumere, ma forse tutto il mondo negli anni Ottanta ha assunto delle prerogative che l'egonismo io non... L'egonismo reganiano di cui si parlava, così, no? Un po' una palla. Milano era invece la città dove si lavorava, dove c'era una nebbia che non vedevi il numero del tram, però era una città molto viva, molto vivace, con delle grandi possibilità. Era l'Europa, secondo me. E sono venuta a Milano e lavorando in altre imprese prima di trovare questo annuncio sul Corriere della Sera in cui assumevano una segretaria per ufficio stampa. Io mi sono presentata al proprietario. Era l'Ari. L'Ariston, il proprietario, che era il signor Alfredo Rossi, lo chiamo sempre signor Alfredo Rossi anche se poi gli ci davano del tu, e che è mancato l'anno scorso e che ricordo con grande piacere perché era un romagnolo di quelli veraci, sanguigni come te, sanguigni, pestifero, ma capace, intelligente. E il suo fratello è Carlo Alberto Rossi, che è ancora grande autore, grandissimo, no? Autore di grande classe. E devo dirti che mi assunse all'Ariston, lì ho cominciato il mio viaggio nella musica, che ha toccato tante esperienze, dall'ufficio stampa, l'ufficio promozione, poi la numero uno, Battisti Mogol, insomma, tante. E sicuramente tutti questi signori che ho incontrato, tutti mi hanno insegnato qualcosa, ho imparato, devo dire che imparo ancora adesso, perché sai, non si finisce mai. Forse un giorno, quando è finita questo viaggio terreno, andremo a vedere se riusciamo a capire qualcosa da qualche altra parte. No, questo viaggio continua. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con me, veramente un monumento della musica italiana, che Mara Maionchi fa spallucce. Meno male che non sono a cavallo, perché sennò... sai che quando ero piccola passavo in una strada dove c'era un monumento Vittorio Emanuele, Garibaldi, mi faceva un'impressione, dicevo, pensa, colui tutto. L'eternità a cavallo, che palle, non poter mai scendere, non so, è una idea, un pensiero stupido, però non so perché l'ho sempre fatto. No, a Mara Maionchi, come ti piacerebbe un monumento? No, a te, non mi piacerebbe. Meglio di no, ci, no, porta, no, ci manca anche. Poi strane, non mi... strane io vocazioni. Non sono mica un personaggio, neanche da targa, figurati te da monumento, ma dai, siamo seri. Credo proprio da targa sì, anche perché abbiamo detto che ha fatto gran parte della storia della musica italiana per molti anni, dietro le quinte, e poi, abbiamo detto, sei nata a Bologna nel 1941, poi sì, X volevo, Factor che ti ha dato la... Volevo sottolineare questo perché secondo me è importante. Io ho lavorato nel mondo della musica leggera da tanti anni e ci sono tante persone che hanno lavorato nel mondo della musica leggera molto importanti, che non avendo avuto l'occasione di un programma televisivo abbastanza fortunato come X Factor non si sono fatti conoscere. Ma a me questo dispiace, perché io non è che sono il massimo. C'è stata gente molto capace, da Ennio Melis alla Mima Gaspari a Micocci, ma tantissimi, però voglio dire, vorrei ricordare tutti questi che sono stati fondamentali. Io ho solo avuto l'occasione di farmi conoscere, per cui il pilastro diventa relativo se parliamo di realtà. Però Mara Maionchi ha questa particolarità che è stata la prima donna in Italia a avere un ruolo importante nella discografia italiana. No, questo si può dire. Sì, prima di me la Mimma Gaspari, che è una signora di Roma che ha fatto l'ufficio promozione dell'RCA, che era il fior fiore all'occhiello di quell'epoca della musica leggera. Poi c'era Caterina Caselli, poi ce ne sono state tante, voglio dire, insomma, adesso non è... Ma che, la scuola per te, ritornando un po' indietro, no, le tue origini, parlavamo di Bologna, dici un tasto dolente, non hai avuto per niente un buon rapporto, come racconti in Non ho l'età, pubblicato da Rizzoli. No, per colpa mia, ovviamente. Perché non ti appassionava? No, per niente. No. Infatti non ho neanche tanti ricordi scolastici, perché ero un somaro, ero un somaro vero, non è che la colpa era dei professori, no, ero io che non mi dedicavo con passione, mi interessava relativamente, e devo dire che poi ho imparato molto più dopo, leggendo i libri, interessandomi di certe cose, che non a scuola. Però è stata una liberazione quando tuo padre ti ha detto: vabbè, insomma, se non hai voglia di studiare, la scuola non ti piace, vai a lavorare. E lì sì, finalmente sei scaturita in tutta la tua... Che ragazza eri, Mara Maionchi? Ero... come adesso, ma era una ragazza normale, vivace, mi piacevano, sicuramente, vivace, curiosa, sì, no? Vivace, ero abbastanza simpatica, molto libera, avevo amici uomini, amici donne, era, per me era sempre uguale, non ero molto sinforosa, dicono, non ero leziosa, una che non ero leziosa, non lo stato perché non lo sono, però mi piaceva vestire, mi piaceva andare a feste, avevo un'amica del cuore che si chiama Maria Bolognesi, che alla mia età, un 6 mesi di più, che aveva, mamma mia, un fisico tremendo, fortissimo, 2 tette pazzesche. Quella è sempre una cosa che le ho invidiato. Non mi sono mai venute quando sono rimasta incinta. Mi sono detto: sì, Camilla e Giulia. Quando sono rimasta incinta della prima figlia, mi sono detto: eh beh, è il mio momento. Adesso... invece mi è venuto tutto perché le tette. Per cui il mio destino era quello di non averle. Però, scuso il problema del seno della Maria Bolognesi, che secondo me è stato sempre un punto di arrivo della mia vita. Per il resto, ero una ragazza normale. Sì, ma i tuoi genitori, in qualche modo, hanno inciso nelle tue scelte e in questa verve che tu continui a avere? No, i miei genitori mi hanno sopportato, non hanno... Beh, erano tremendini anche i miei genitori. Pensa che io ho avuto un fidanzato che li aveva conosciuti bene, che chiamava mia madre Miglietta la sanguinaria e mio padre Oreste il bizzarro, per cui anche i miei genitori erano bizzarri. Mio padre però era più contenuto. Tieni presente che mio padre era del 1895 però... e mi aveva avuto in tarda età, 50 anni, per cui papà aveva giustamente un comportamento, una mentalità un po' più legata alla sua epoca. Ma è vero che diceva a 80 anni questa cosa la farò da vecchio? Sì, perché mio padre lavorava ancora, avevo 80 anni e poi morto non tanto dopo, morto a 82 anni, e quando avevo 80 anni lavorava ancora, lavorava in piena attività, e mi diceva: ma questa cosa la farò quando sarò vecchio. Noi lo guardavamo, lui intuiva, ci guardava e diceva: beh, insomma, adesso cercheremo, cercava di aggiustare questa battuta. Beh, la stoffa è quella, è la tua comunque, no? Sì, beh, finché c'è vita c'è speranza. E perché... la tua mamma anche con questa fibra? No, con questa mia mamma era del 1903, è morta nel 2002, essendo una donna, una grande fortuna mia madre ha avuto, la più grande che può accadere, che è quella che è morta in salute, dava letto tardi, mangiava quello che vuole. Pensa che quando si faceva la bistecca metteva mezzo etto di burro, non voleva che la facessimo noi. Lo dico certamente, anzi nessuno lo deve fare come non lo faccio io, però devo dire che per anni mi sono chiesta: farà male il burro? Perché poi vedendola, e poi in effetti a quelli sani veri non fa mica male niente. Ci sono delle tempre, si vede che manco la bomba atomica forse, chi lo sa. Quella non l'abbiamo provata, però insomma, avendo voluto. Dicevi, tuo papà che si è sposato tardi, in tarda età, però anche tu sei stata un'antesignana, nel senso che adesso si usa, però tu ti sei sposata negli anni passati, negli anni 33 anni 70, fa. A 35 anni avevi? 35, credo. Fai conto, allora nel 76, 35. Ci si sposava presto, se no rimanevi zitella, se no tutti ti guardavano, se no nessuno poi ti voleva, sono questi pregiudizi forti. Beh, che sì, tu, ce li aveva anche mio papà, gli dispiaceva, diceva: non devi rimanere sola, insomma, mi spingeva in effetti a fare la mia famiglia. Non aveva torto, ma io non ci pensavo, mi sembrava di essere sempre un giovane, non mi sembrava così grave. E poi hai incontrato un uomo, tra l'altro sentite come anticonformista Mara Maionchi, ha incontrato un uomo 10 anni più giovane di lei. È andata così, sì, in effetti era giovane, mio marito è del 50, ha 9 anni. Aveva 16 anni quando l'ho conosciuto. No, vabbè, ma l'ho visto, adesso non è che sono un pedofilo. Non è successo niente. No, non è, era un, lo conoscevo. Così, sì, certo. Poi dopo a un certo punto della vita, vedi come è scritto veramente, a un certo punto della vita ci eravamo sfidanzati tutti e due, una combinazione. Lì ci siamo rincontrati, lì è nato tutto, nel 76 ci siamo sposati e in effetti Alberto era giovane perché aveva credo 26 anni, io ne avevo 35, a 9 anni qualche mese. Beh, poi data l'età della sposina dovevamo stringere un po' sui bambini, altrimenti o li portava alla cicogna, se no sarebbe stato difficile. E anche in questo, anche lì, adesso no, molte donne li fanno in età cioè, abbastanza avanzata e tu già allora negli anni sì. 70, fine anni 70, sì. La prima figlia avevo Giulia 36 è arrivata, anni. Che avevi 36 anni. E la seconda 40. Poi sai, mi aiutò anche mia madre, perché io in effetti 33 anni fa avevo un po' qualche perplessità di sposare un uomo così giovane. Poi mia madre mi fece un famoso commento che mi chiarì le idee. Mi disse, scusa, ma non sei mica tu che ti deve preoccupare, è lui che la ciapaveggia. Cioè, è lui che ha il problema. La fregatura in casa se la prende In effetti una parte di verità c'era, ero io. E credo che, ma ho scoperto col tempo che poi le cose hanno un loro destino. Tu credi nel destino? Io credo che ci sono, succedono delle cose che creano delle situazioni e che probabilmente erano scritte o, beh, anche il mio lavoro è stato un'occasione su un corriere, io non leggo, ma sì, è un caso incredibile. Io credo che ci sono delle cose che bisogna poi fare con coraggio, se vanno male bisogna cercarle di aggiustare con altrettanto coraggio. Poi certamente sposarsi è una cosa molto importante, bisogna anche sposarsi con una mentalità in cui si decide di aver preso un impegno e che non si può mandare a monte per qualsiasi sciocchezza succeda, e ti posso assicurare che in 33 anni di matrimonio tante sciocchezze succedono. Nella tua autobiografia, Mara Maionchi, Non ho l'età, questo è il titolo, citi un sacco di incontri con personaggi incredibili, eccetera. Abbiamo detto che hai scoperto, comunque hai incontrato e hai tirato fuori il talento che aveva Gianna Nannini, sì, quando ti è arrivata a 16 anni con questi stivaloni. Aveva 20 no? anni, credo, non so, qualcosa. Fino ad arrivare a Tiziano Ferro, ma sì, poi hai conosciuto Fabrizio De André, hai collaborato un po' per il lancio anche della carriera di Ornella Vanoni, insomma ne hai fatte. Secondo te, una, e hai cambiato varie case discografiche, una carriera sfolgorante, entusiasmante come la tua, oggi, nei tempi di oggi è ancora possibile o erano cose come gli stessi artisti legate a quegli anni così particolari? Beh, non c'è dubbio che ci sono dei periodi fortemente influenzati da varie cose. Io credo che oggi quello che ho fatto io non sarebbe forse più possibile, ma per tantissimi motivi. Però potrebbe essere possibile qualcosa anche di meglio in modo diverso. I tempi non si ripetono, però possono essere anche migliori. Anzi, secondo me, io penso sempre così. Che bello, quello che forse è stata... questo che ti fa essere eternamente giovane, Mara. Sì, finché non finisce il film, io credo che il film si possa cambiare continuamente, si possono trovare altri interpreti, si possono trovare altre soluzioni e questo credo che sia importante. E anche nella vita, dice, a livello sì, mente, sì, quindi. Anche nella vita. Per cosa adesso invece Mara Maionchi non ha l'età, come il titolo della tua autobiografia? Sempre nella vita non hai l'età, perché prima io mi ricordo quando ero giovane che dicevo, posso uscire? No, Mara, non hai ancora l'età. Ma posso fare? No, Mara, non hai ancora l'età. Poi adesso, ma fai ancora quelle cose lì, ma Mara, ma non hai l'età. Per cui secondo me non avere l'età è una cosa che succede sempre, perché secondo quello che devo fare, io quando esco che dico allora faccio così così, mia figlia dice, ma mamma, dai, c'hai quasi 70 anni, non hai l'età per fare, insomma, non ho mai l'età, allora forse ho questa deciso. È la, è la fortuna, è la chiave vincente, non avere l'età. Non ce l'abbiamo mai l'età per fare le cose giuste, bisogna fare quello che uno si sente, sempre tenendo in considerazione che insomma un po' di età c'è. E che cos'è una caratteristica umana che ti piace? L'amore. L'amore, la capacità. Ma non l'amore nel senso tra uomo e donna fisicamente sani in età giusta, ma è l'amore nei confronti di tutto. Io credo che, io ti sembra strano di quello che ti dico, ma è di cui sono profondamente convinta, che la salvezza dell'uomo passa solo di lì, dalla parola del Cristo. Il resto è tutta, abbiamo provato che sono qualche secolo che facciamo stronzate una dietro l'altra perché non abbiamo mica capito la strada giusta. Questa che vedi qua, Mara Maionchi, è la lampada di Aladino. Fantastico. Visto che tu sei così aperta al futuro, al miglioramento, eccetera, un desiderio che esprimeresti? Beh, mi piacerebbe molto avere 20 anni. Bello, ammazza, sei bello. Piacerebbe molto, sì. Però i tuoi anni così splendidi, hai questo entusiasmo. Se ne frega, sono passati. Io vorrei avere tutto da capo e ricominciare tutto da capo. Tutto come hai fatto? No, anche diverso. Vabbè, chissà. Magari, in un'altra vita. in un'altra, chissà, forse. Grazie Mara Maionchi. Grazie a voi, è stato un piacere stare con te.